dell'amore, dell'amore. Ma con qualche lira in più ti sposerei. Papà! Sono venuti da lontano i bordi delle strade, i bordi delle strade. I sogni che finiscono in catene. Le differenze che diventano prigioni, dormono le speranze in fondo al mare. Hey Mr. Tambourine Man, bring in your symphony, sing a song. Dentro casa mia, per domani non sappiamo il tempo che fare.